questa è Uru, state ascoltando Radio Wombat. Prima di iniziare vi ricordiamo i social wombat.noblogs.org, il sito da cui potete scaricare o riascoltare i podcast delle puntate precedenti, Radio Wombat FIA e il profilo Twitter, uru-rw è il profilo Twitter della trasmissione, posta wombat@insiberia.net per comunicare con noi. Wilson Kofi, 20 anni, proveniente dal Ghana. Omar Fadera, 23 anni, proveniente dal Gambia. Jennifer Otiotio, la ragazza, dalla Nigeria, 25 anni. Gideon Azeke, nigeriano, 25 anni. Mamadou Touré, dal Mali, 28 anni. E infine Festus Omakbon, dalla Nigeria, 32 anni. Sono i sei migranti feriti dal raid fascista, razzista, a Macerata. Niente, li volevamo ricordare proprio perché si parla su quasi tutti i giornali, se non su tutti, come migranti, come una cosa indistinta, invece hanno nome e cognome, hanno le loro vite, hanno le loro culture. E quindi niente, ecco, ci piaceva ricordarli e vogliamo anche dare, per chi può andare, l'appuntamento di domani a Macerata, a corteo antifascista e antirazzista, contro tutti i fascismi e contro tutti i razzismi. 14:30, piazza della stazione a Macerata. E stasera facciamo una trasmissione un po' particolare, basata giusto appunto sulla Nigeria, come la maggior parte dei feriti di Macerata, anche se era già pronta, quindi cade proprio a puntino per farvi sentire com'è la musica e farvi capire la bellezza di questa cultura. Sì, puntata 44esima puntata di Uru, suoni, musica e notizie dal continente africano, dedicata all'Afrobeat Revival, anche se Revival in questo caso è semplicemente una definizione data dai giornali, in realtà, e dai giornali specializzati chiaramente, in realtà l'Afrobeat in Nigeria e anche in Ghana non ha mai smesso di essere suonato, non ha mai smesso di essere ballato, semplicemente nato e sviluppatosi con la grande orchestra di Fela Kuti. E alla morte appunto di Fela c'è stato non tanto una minor attenzione nel proprio paese, cioè in Nigeria e in Ghana, c'è stata semplicemente una minore attenzione diciamo al di fuori di questi due colossi da un punto di vista geografico, da un punto di vista della densità di popolazione. E semplicemente poi successivamente, pur parlando di Revival, appunto, come abbiamo detto precedentemente, non c'è mai stato diciamo un periodo in cui l'Afrobeat è stato meno suonato, ma per una serie di circostanze favorevoli in questo caso all'Afrobeat diciamo che è stato riscoperto tra virgolette anche al di fuori dei paesi in cui appunto è sempre stato suonato. E le circostanze sono le più diverse, una tra le quali è che ci sono quelle che erano i rappresentanti più in vista, diciamo così, dell'orchestra di Fela Kuti, hanno ricominciato a reincidere dopo un periodo passato semplicemente a produrre, e nello stesso momento non solo alcuni rappresentanti, alcuni partecipanti all'orchestra di Fela Kuti, ma soprattutto i due figli di Fela Kuti, Seun e Femi, hanno riaperto lo Shrine, che era il posto, e lo è tuttora, il posto, il locale da dove veniva, da il punto propulsivo, diciamo così, il luogo di propulsione, di innovazione, di creatività dell'Afrobeat. Nello stesso momento è successo anche che, dopo un periodo molto oscuro per la Nigeria, derivante proprio dalla presenza di una, se non di una dittatura, comunque diciamo, di una situazione politica che, diciamo, come dire, opprimeva non soltanto da un punto di vista economico, e politico, ma anche, culturale, anche se chiaramente le cose vanno di pari passo. Successivamente c'è stato anche, tramite, anche, perché ci sono state, continue lotte da parte delle popolazioni, specialmente quelle del Delta del Niger, per porre fine a quella che era proprio una dittatura, diciamo sì, vera e propria. C'è stato, conquistato nelle unghie e codenti da parte della popolazione, c'è stato una certa allentamento, diciamo, di queste maglie della censura, e quindi, pur essendo appunto sempre stato suonato la probit, con l'allentamento di queste maglie, della censura, si è potuto, diciamo, non evolvere, espandere ancora di più, rispetto al periodo precedente. E, vi facciamo sentire uno, anzi, se non il principale, il più conosciuto componente dell'orchestra di Fela Kuti, che sotto certi aspetti rappresenta un tramite, tra, quello che era, l'orchestra, appunto, erano le origini dell'Afrobeat. Stiamo parlando di Tony Allen, che già, insieme a Fela Kuti, autore di un concerto, riportato su vinile memorabile all'inizio degli anni 70, insieme, a Ginger Baker, appunto Tony Allen, che è una sorta di guru, diciamo così, per le vecchie, che è stato una sorta di guru per le vecchie, per il periodo dell'Afrobeat, diciamo, degli anni 70, ma che, lo è tuttora, il periodo appunto che va dagli anni 90 fino adesso. Tra l'altro, recentemente, per dire che, nonostante un'età, non più giovanissima, ancora, Tony Allen, gira e ancora, suona, ancora, è sul palco. Alcuni mesi fa, anzi pochissimi mesi fa, ha suonato qui in città, a Firenze. E quindi facciamo ascoltare, il primo pezzo di questa 44ª, puntata di Uru, e Tony Allen con, Crazy Afrobeat. 1, 2, 3, 4. Crazy Afrobeat. Si sono aperti oggi i giochi olimpici invernali in Corea a Pyeongchang e, contrariamente a quello che si potrebbe credere, ci sono ben 7 nazioni africane rappresentate, cioè Eritrea, Ghana, Kenya, Marocco, Nigeria, Sudafrica e Togo. E Eritreo è lo sciatore Sheno Kubani Abeda, sciatore eritreo che appunto partecipa alla gara di discesa libera, che dichiara appunto: spero di ispirare altri bambini, non solo eritrei, ma anche dei piccoli paesi, a partecipare all'Olimpiadi. Mentre invece Seun, appunto Adigun, Akuoma Omega e Ngozi Nwere sono le partecipanti del bob femminile Nigeria 1, la cui qualificazione, appunto, perché tra l'altro si sono pure qualificati con un tempo di qualificazione, hanno ottenuto, ha già fatto il giro del mondo e ha messo in crisi la federazione nigeriana, Federazione Olimpia Nigeriana, che per acquistare appunto l'equipaggio da bob l'ha dovuto fare una colletta. Mentre invece nello skeleton, ma in questo caso maschile, gareggerà Akwasi Frimpong, il primo atleta ghanese alle Olimpiadi invernali. Tra l'altro Frimpong ha pure un casco in cui c'è un coniglio rincorso da un leone e ha detto chiaramente che il coniglio rappresenta lui, perché appunto quando è arrivato in Olanda, che attualmente è il paese in cui risiede, seppur appunto rimanendo come passaporto il Ghana e gareggiando appunto per il Ghana, lui era un coniglio e il leone lo rincorreva, erano appunto la polizia, diciamo la questura, che gli richiedevano i documenti, appunto a cui lui doveva scappare, perché appunto era privo di documenti, era un immigrato, un migrante, diciamo illegale, diciamo così, tra virgolette. Debutta anche il Kenya alle Olimpiadi con Sabrina Simater, 18 anni, che gareggia una gara olimpica di sci. E niente, questi sono alcuni dei partecipanti dei 7 paesi dell'Africa che partecipano appunto a queste Olimpiadi invernali. Era una notizia non tanto curiosa, una notizia sotto certi aspetti anche importante, perché diciamo che significa che certi tipi di sport non sono più appannaggio di elite, sia da un punto di vista delle nazioni, ma sia anche da un punto di vista della come dire, dei soldi, diciamo, dell'avere soldi. Ci sono anche sudafricani, ma diciamo i sudafricani rappresentano un po' una storia a parte, anche perché sono sciatori, anche perché nel Drakensberg, che sono i monti più alti, la tenda montuosa più alta del Sudafrica, ci sono gli unici due impianti di risalita di tutto il continente africano. E la prossima canzone è di Femi Cusi, figlio di Fela. Ci ascoltiamo

che richiede grandi sacrifici, ma che permette a tutti di sfamarsi, anche perché appunto il pesce in questo caso rappresenta non soltanto una fonte di guadagno nel venderlo, ma rappresenta anche una forma primaria di sussistenza, diciamo, di cibo per gli abitanti che vivono appunto sulle coste, per le persone che vivono sulle coste del Senegal e della Mauritania. E appunto è un'attività che viene tramandata di padre in figlio con tecniche rituali che piano piano stanno scomparendo e che comunque ha permesso di costruire diciamo delle comunità coese, hanno contribuito anche alla politica, diciamo, alla partecipazione alla socialità, alle decisioni politiche di un paese come il Senegal. E tra l'altro chi è stato in Senegal lo sa benissimo, perché per esempio da vicino a Dakar c'è il porto di Joul, che è uno se non il più grande, diciamo, di quel tratto di costa, e in cui appunto si vede questa umanità, queste persone, queste famiglie, e appunto non c'è soltanto da registrare per chi lo vede un dato economico, ma anche una cultura e una socialità che vive intorno alla pesca. E la pesca costiera impregnava, diciamo, e impregna tuttora sotto certi aspetti la vita quotidiana. Le piroghe costruite con tecniche semplici ma di grande efficienza e di bellezza, distese di pesce poste ad affumiare sulla battice, le donne che al rientro dei pescatori continuano la lavorazione e poi successivamente la vendita e poi la conservazione attraverso l'affumicamento o la disidratazione appunto del pescato. Un mercato in ogni spiaggia, in ogni luogo dove è possibile approdare o imbarcazioni spinte da vento e chiaramente recentemente da motori fuori bordo. Ma da oltre una decina d'anni la situazione è letteralmente precipitata. Le flotte delle multinazionali del pesce, la stragrande maggioranza sono europee, ma non solo, hanno invaso letteralmente il tratto di Oceano Atlantico e lambisce queste coste dell'Africa occidentale. E appunto, tra l'altro, l'aspetto c'è anche da dire che questo pesce viene pescato dalle multinazionali, per la stragrande maggioranza non è un pesce che poi successivamente viene venduto come cibo, ma che viene utilizzato per le farine animali, che a sua volta vengono utilizzate per ingrassare, diciamo, per una crescita più rapida e abnorme degli animali, degli allevamenti intensivi. E quindi appunto una pesca che distrugge l'ambiente viene utilizzata per produrre farine che a sua volta servono per gli allevamenti intensivi e che quindi non serve, diciamo, per sfamare, per come cibo per le popolazioni sia in Senegal che nel resto, diciamo, che nei paesi di provenienza di questi multinazionali. C'è da notare anche che invece per queste popolazioni che sono da sempre che vivono di pesce, sia da un punto di vista della vendita ma anche da un punto di vista della cucina, diciamo, e questi piccoli pesci che da parte del multinazionale vengono utilizzati semplicemente per farina, in Senegal e Mauritania vengono invece utilizzati per mangiare. Ci sono tutte tecniche particolari, appunto, fra cui appunto l'essiccamento, la fumicazione, che fanno dei prodotti squisiti, succulenti, e che invece proprio per il lungo tempo che occorrono per essere, diciamo, pronti per essere utilizzati come cibo, le multinazionali appunto non lo utilizzano in questo senso qui. E un peschereccio, per dirvi un'idea delle avidità delle multinazionali, può arrivare a pescare in un solo giorno l'equivalente del pescato di 56 piroghe in un anno. E già verso il 2010 si è lanciato l'allarme inascoltato che entro una decina di anni potrebbe non esserci più pesce in questo tratto di mare prospiciente le coste del Senegal e della Mauritania. Gli anni sono trascorsi e ci avviciniamo senza sia stato fatto nessun intervento. E passiamo adesso ad un altro figlio di Fela Kuti, che anche lui ha portato avanti l'afrobeat come eredità dal padre, con il quale ha condiviso fin da piccolo il palco sullo Shrine, cioè Seun Kuti. E in questa canzone spesso lo troviamo insieme all'Egypt 80, che era che è stato l'ultimo gruppo con cui si esibiva Fela. E lui si riconosce perché ha una voce molto particolare, molto bassa, e i testi delle sue canzoni sono sempre molto impegnati. In questo, per esempio, si parla della corruzione, contro la corruzione in Nigeria, ma altri, se avremo l'occasione di sentirle, parlano del dovere di combattere per i diritti, eccetera. Volevo semplicemente sottolineare che del gruppo originale dell'Egitto 80 rimane comunque un rappresentante, un membro, il sax alto Lekan Amakashan, che è anche, diciamo, il direttore musicale, ecco, dell'orchestra, in questo caso l'Egitto 80 con Seun Kuti. E ci sentiamo Think Africa, Seun Kuti e Egitto 80. Fight themselves every day. If say they never beat themselves today, Croatia. Tomorrow, now the president they beat in vice. Army go beat police. Police go beat civilian. Even before we civilian fight, they don't fight themselves for us on our behalf. I beg. Different ways to solve them. bad, bad, bad, bad, bad. Look who where they put us. Bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad. We not go anywhere. We not go anywhere. We not go anywhere. We not go anywhere. We not go anywhere. E aggiungiamo un po' d'altre parole rispetto alla notizia precedente, cioè questa probabile fine del pesce, e per ora nessun tentativo serio di limitare, se non azzerare, il potere delle multinazionali, appunto dell'industria ittica. Dal porto di Joal, il porto appunto abbiamo menzionato precedentemente, il porto più grande del Senegal, il più grande porto dove giunge il pesce in Senegal, i pescatori dicono che negli ultimi 10 anni il pescato è calato del 75%, praticamente una strage. L'azione delle multinazionali del pesce sta destabilizzando fortemente la società senegalese, ed oltre 2 milioni di persone che dipendono dalla pesca sono in crisi. Tanto va considerato, tra l'altro, che l'industria ittica senegalese era la prima industria per fatturato. Si stima che già 300.000 persone abbiano perso il posto di lavoro, e gli effetti negativi stanno ormai giungendo anche ai piccoli pescatori e a coloro i quali la pesca rappresenta un dignitoso modo di vivere. Ma l'effetto è ancora più devastante se consideriamo le multinazionali. Per avere le concessioni o per non essere infastidite dalle guardie costiere, hanno alimentato un sistema di corruzione che oramai, anche ora che il governo a posto vincolo alla pesca, no, non è più è difficilmente arginabile. Ancora l'effetto più evidente e preoccupante è quello sulle comunità locali, fino ad oggi in pace, e che oggi iniziano a lottare, tra virgolette, per la sopravvivenza. Una sopravvivenza non solo di oggi per il cibo e per il denaro, ma che si proietta anche nel futuro. Per i giovani senegalesi il lavoro dei pescatori era faticoso, ma stava all'interno delle tradizioni familiari e rappresentava un futuro certo. Oggi questo futuro non esiste, l'incertezza è massima, la fiducia è inesistente e l'unica alternativa sembra essere quella di migrare. E questo appunto è quando diciamo che se uno guarda le radici, perché c'è questa presunta invasione, questa migrante continua ad arrivare, ci rendiamo conto che è sempre, o quasi sempre, responsabilità delle multinazionali americane, europee, asiatiche, comunque, che vanno dai nostri paesi, vanno a depredare le risorse dell'Africa, dei paesi africani. E l'effetto di questa catastrofe annunciata, è iniziato solo ora, però a essere visibile, diciamo, costituirà un nuovo elemento di crisi, diciamo, per l'Africa, ma più in generale per il pianeta. E quindi, anche se i nostri supermercati continuano a essere pieni, i nostri allevamenti avranno farina animale per accrescere finti animali che finiranno sulle nostre tavole e che per metà verranno gettati perché superflui. Quindi viene tolta una fonte di guadagno e di cibo alle popolazioni africane, diciamo, della costa dell'Oceano Atlantico. Questo cibo che viene tolto viene utilizzato quasi esclusivamente per farine animali, che a sua volta fanno crescere finti animali, che a sua volta ne utilizziamo neppure la metà, perché vengono gettati via, perché superflui. E passiamo ad un altro nigeriano cresciuto a Lagos, amico d'infanzia di Femi Husi, e cioè Dele Sosini, tastierista, arrangiatore, vocalist. Entra negli Egypt 80 nel 1979. Poi costituisce con Femi Husi, con cui è cresciuto, il gruppo Positive Force. Dopo, mentre Femi Husi ha sempre più successo, lui rimane un po' in disparte, e finché da solo fa un gruppo, e l'album si intitola Identity, appunto. Vuole appunto rimarcare le radici nigeriane di Dele Sosimi, e nello stesso momento le radici musicali del suono appunto della Afrobeat. Appunto l'album si intitola Identity, il pezzo è Ojoro. Va anche detto che proprio per rimarcare questa identità nigeriana, il pezzo e tutto l'album, tutti i pezzi dell'album sono cantati in pidgin, che è questa sorta di slang utilizzato, parlato specialmente a Lagos, ma un po' in tutte le grandi città nigeriane, che è costituito un po' da un inglese, anche se già storpiato, diciamo, all'africano, ecco, a questo punto di vista, e lo Yoruba, che è la lingua principale della Nigeria. Quindi Dele Sosimi con Ojoro. Everybody, I just want to do my things to determine my identity. I dey move everybody. To dey move with intensity. As you see how I be, as you know how I dey. I just want you my team. Make I dey move everybody. I just want you my things. To determine my identity. Make I dey move everybody. To dey move with intensity. Me and you, we come down together. I dey look to you, you dey look to me. You won't come bring your thing to cover my identity. You won't come use your way to suppress my intensity. You won't come deep my day with your eyes and mendacity. You won't come kill my ways on it, on this style audacity. I want you to know, I want you to know. We'll be right back. questo era Adele Sosimi, che chiaramente Afrobeat, però si sentiva un po' l'influenza jazz. Vi ricordo che state ascoltando Radio Wombat, la state ascoltando su wombat.noblogs.org, da cui potete scaricare podcast o riascoltare podcast delle precedenti puntate di Uhuru, ma di tutte le trasmissioni della radio. Il profilo Twitter è Wombat, Radio Wombat Fi, mentre quello di questa trasmissione Uhuru è Uhuru-RW, se volete seguire qualcosa in più sull'Africa è quello che dovete seguire. La mail è posta wombat@insiberia.net. Le repliche di Uhuru, se volete riascoltarla, è la domenica alle 23 e il lunedì alle 8:30 del mattino. E parliamo di Bisade Ologunde, musicista nato a Lagos, musicista appunto, cantante e anche autore dei pezzi che canta, è nato nel 60 a Lagos e lui si definisce appunto, non è un nome d'arte, o meglio, lo considerano tutti gli altri, o meglio la stampa specializzata, insomma, comunque conosciuto come Lac Baja, ma per Bisade Ologunde non è un nome d'arte, ma è bensì una definizione di se stesso nello stesso momento, il concetto che ha sviluppato e che porta avanti attraverso le sue incisioni. E canta con una maschera che appunto deriva dalla tradizione nigeriana. Il Lac Baja è una parola yoruba che significa nessuno in particolare. Rappresenta appunto l'anonimato del cosiddetto uomo comune, e la maschera e il nome simboleggiano il faceless, la voce dei senza voce nella società, in particolare in Africa. È un concetto appunto, come ho detto precedentemente, che ha sviluppato e ha portato avanti attraverso le sue incisioni, attraverso i suoi pezzi, che come immaginabile trattano dei problemi della Nigeria e anche della possibilità di vincere, di oltrepassare, di lottare contro questi problemi. Il primo album l'ha registrato nel 1993, si intitola appunto Lac Baja, e nel corso degli anni ha unito, diciamo, a quello che era l'afrobeat originario anche altri suoni che vanno dalla musica tradizionale yoruba al jazz, e a volte anche i suoi pezzi sono puramente strumentali, però diciamo che comunque sono caratterizzati da un'interazione tra le percussioni tradizionali degli Yoruba, e sono i tamburi, i canti, strumenti come il sassofono e via dicendo. E i testi stessi appunto sono cantati in Yoruba oppure in Pidgin, che è questa sorta di slang delle grandi città nigeriane, in particolare di Lagos, che unisce il vocabolario yoruba con quello inglese, e appunto molte delle sue canzoni si occupano di gravi problemi sociali. Una cosa che collega, diciamo, tutte le sue canzoni è l'uso, appunto, mi ha detto, dei tamburi africani tradizionali. Sono dei grandissimi tamburi che a sua volta, rispetto alle scanalature, diciamo, oppure alle dimensioni, danno suoni diversi, e proprio per questo non sono chiamati con nomi diversi, ecco. Quindi un tamburo di una certa dimensione viene chiamato il tamburo più grande rispetto al nome che è il tamburo più piccolo, ma proprio con un altro nome. E nel 97 ha fondato un suo club, Motherland, nel cuore di Keja, che è il quartiere di Lagos più culturale, ecco, da questo punto di vista, dove si concentrano tutti i club afrobeat, dove si concentrano o da dove partono, diciamo, le manifestazioni, da cui nascono, diciamo, le iniziative per una migliore qualità della vita. E il design, diciamo, del club di Motherland è proprio influenzato dalla tradizionale città africana, una piazza del mercato, un posto dove le persone si riuniscono, è un posto deputato, diciamo, per gli eventi artistici come la danza, la musica, i suoni e via dicendo. E di lui ci ascoltiamo Side by Side, è la Cabaja. Ladies of nowadays, see them to dress you. Oh, oh. there won't cause the accident. Before, woman they dress to cover body. But now, woman they dress to kill the person. I want baby, yeah. Don't wash up. Different clothes. Different occasion. If not party, not complete. Hey, get a rock and roll combination. If not work, not complete. Oh, party, sketchy clothes, back and shoe combination. If not play, I want. Oh, turn on. Let's see, kill see. To explosive body. If you meet the mommy and daughter, you no go know who be mommy. You go think he did too. Na sister, them go do waka like he pepe, yeah. Ha, lefu rete, oh. Carry picking. When they drive, we follow. To concentrate in our hala. I want baby, they don't cause it. Kata. Man must be put to one hand for in pocket, yo. Because, need to repay. Because prevention is better than cure. If we are mini, if we are blousy, it's litty mini, rishi waste. Mini tight, blousey tight, nothing for under. Move a man, what boys? Illegal possession of dangerous side weapon. You are madam under arrest. Side by side. Capital offense, capital punishment. Side by side. Madam, dangerous dressing causing breach side of peace. Side by side. Oga, rough parking causing obstruction. Pandoro. Side by side. Pandoro. Side by side. Oh, what should we do? Oh, wash your coat. Oh, wash your bar. Only King Kalo. Mole mi yo lo. Only King Lode. Mole mi yo lo. E vogliamo riricordare i nomi: Wilson Coffey, 20 anni, Ghana. Omar Fadera, 23 anni, Gambia. Jennifer Otiotio, la ragazza, 25 anni, Nigeria. Gideon Azeke, Nigeria, 25 anni. Mamadou Touré, 28 anni, Mali. Festus Omakbon, 32 anni, Nigeria. Sono i feriti dal raid fascista, nazifascista di Macerata. Domani, sempre a Macerata, con partenza alle 14.30 dalla stazione appunto di Macerata, manifestazione contro tutti i fascismi e contro tutti i razzismi. Mentre sabato 17, ve lo diciamo adesso perché avete un po' di tempo per prenotarvi, c'è la manifestazione a Roma sempre alle 14.30 per difendere Afrin, che è in Kurdistan siriano, che è da un mese circa sotto i bombardamenti turchi. Quindi mi raccomando, sabato 17, Pullman da Firenze. Per informazioni potete mandare un'email a assemblea chiocciola@xemerson.it oppure cercare su Facebook la pagina di Iniziativa Antagonista Metropolitana di Firenze. E la puntata finisce qui, ci sentiamo la settimana prossima, ciao a tutte e tutti. Vi ricordiamo che potete ascoltare questa puntata, o comunque in genere le puntate di Uru, in replica la domenica alle 23 e il lunedì mattina alle 8:30. Ciao ciao.